Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non so, poi non sono proprio convinto che questo risultato dell'Inter sia così positivo come ho letto e sentito dire quasi ovunque. Nel senso che è vero che adesso l'Inter ha a disposizione per il ritorno del 16 marzo 2 risultati su 3. È vero che per la prima volta da anni a questa parte, e comunque nella gestione Mourinho, ha vinto una grande partita di Coppa, e l'ha vinta tutto sommato con merito, con fortuna, ma anche con merito, anzi direi soprattutto con merito. Però è vero anche che una squadra che passa in vantaggio dopo 2 minuti, che riesce a colpire a freddo e che poi comunque resiste, anche fortunosamente, ripeto, al ritorno del Chelsea nel primo tempo, ma poi subisce un gol di quelli che si sa che pesano, che rischiano di costar cari e che pesano doppio, riesce a ribaltare di nuovo il risultato e a tornare in vantaggio, ma non trova il colpo finale quando il Chelsea era sulle gambe. Beh, insomma, io credo che un 2-1 con una prospettiva di ritorno allo Stamford Bridge lasci pressoché inalterato il rapporto di forze che c'era all'inizio, quindi non so, c'è come la sensazione, almeno da parte mia, che tutto questo sforzo per centrare finalmente una partita positiva in Coppa, e non c'è dubbio che ieri sera l'Inter l'abbia centrata e come, dopo anni di stenti, in realtà non abbia prodotto quello che avrebbe rassicurato, insomma, un po' di più per la partita di ritorno. Bastava secondo me essere più attenti su quell'azione molto, molto avventurosa di Ivanovic, che ha portato poi al tiro di Calù e alla mezza papera del portiere dell'Inter. È stata la vera pecca di una serata in cui per il resto l'Inter, sia pure tra alti e bassi, tra fiammate e momenti invece di esitazione e di ricadute in vecchi errori anche tattici, anche di personalità, l'Inter invece si è, ripeto, finalmente dimostrata all'altezza di una partita europea e soprattutto con speranze di proiezione nel futuro. Sentiamo il commento di Mourinho alla partita. È un risultato positivo, un risultato che quando inizia la partita a Stamford Bridge l'Inter sta davanti, l'Inter vince, invece di arrivare come normalmente una partita con 0-0 all'inizio, arriveremo a quella partita con 2-1 davanti, e questo è un vantaggio. Penso che si può parlare di grande equilibrio a questo livello. Chi ne ha fatto una partita difensiva, chi ne ha fatto una partita offensiva, è difficile da dire. Noi abbiamo entrato molto bene nella partita, ovviamente nessuno si aspetta di segnare subito, lo abbiamo fatto. Dopo il Chelsea ha avuto una reazione assolutamente normale di una squadra che è 1-0 dietro. Dopo, con il 1-1, l'Inter ha avuto subito una reazione tipica della squadra che non è soddisfatta con il risultato. Eravamo sulle gambe anche noi, a mio parere. Su tutto il resto sono d'accordo con lei, scrive Andrea da Milano. Sì, nel finale sì, l'Inter, pur avendo le condizioni favorevoli per il gol del 3-1, perché c'erano tutte, c'era la freschezza di Balotelli, c'era la facilità con cui riusciva a saltare i difensori del Chelsea sulla sua fascia destra, c'era l'atmosfera, insomma, perché arrivasse quel gol del 3-1. Non c'erano le gambe, ha ragione lei Andrea, non c'erano le gambe, e dobbiamo tornare a quello sforzo titanico compiuto sabato per poi strappare un punto alla Sampdoria, che ripeto, secondo me è stato l'approccio più sbagliato possibile a una partita come quella con il Chelsea, perché il Chelsea non ha la capacità di cambiare ritmo e quindi l'Inter invece ce l'ha, e come, tant'è vero che ieri sera ha strappato 2 volte, ha strappato l'inizio e ha strappato subito dopo il pareggio degli avversari ed è subito andata in gol. Secondo me c'erano i presupposti per provare a insistere un po' di più, forse già nel primo tempo, ed era più difficile perché loro erano ancora più compatti ed erano ancora più tonici. Nel finale certamente di più. Il commento di Carlo Ancelotti. Le emozioni sono legate alla partita, insomma, all'importanza della partita e alla qualità dell'avversario da affrontare, quindi nessuna emozione particolare. Ma sono stati 2 gol un po' strani, avvenuti in momenti particolari della partita, all'inizio siamo stati sorpresi e subito dopo il nostro pareggio. Insomma, al di là di quello, credo che abbiamo giocato molto bene, con molto controllo della partita, anche nel secondo tempo, perché dopo è normale, ci siamo dovuti aggiustare un po' quando l'Inter ha messo Balotelli, ha cambiato un po' il sistema, ha cercato di coprire di più le fasce laterali, ma credo che tutto sommato anche nel secondo tempo abbiamo avuto buon controllo e buone opportunità. Non sono più abituato a commentare questi, sono abbastanza netta, non sono più abituato a commentare questi episodi. Certo, questa battuta finale quando gli hanno messo sotto il naso l'episodio di Samuel, insomma il rigore ed espulsione indiscutibile che Samuel ha commesso a fine primo tempo su Calù, Ancelotti ha detto non sono più abituato, ma non è una battuta come potremmo interpretarla noi, è che in Inghilterra non sono davvero abituati, perché in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Francia, cioè nei paesi civili, la moviola non esiste, la moviola è una nostra, è un nostro brevetto per migliorarci la qualità della vita, ed è uno di quei è uno strumento di cui oltre chiasso non conoscono l'applicazione, e se lo conoscono lo evitano, no? Seguendo un famoso slogan. Non è stato l'unica partita della serata, non solo perché ha giocato il Siviglia, ma perché in precedenza aveva vinto il Milan a Firenze, aveva vinto nel finale in una maniera molto, molto tumultuosa. Le reazioni della Fiorentina all'arbitraggio di Rosetti stanno continuando. Andrea Della Valle, ex e probabilmente futuro presidente della Fiorentina, ha detto pochi minuti fa: quanto abbiamo visto ieri sera è scandaloso. Non capisco come si faccia a mandare un arbitro che ha dei precedenti con questa città. Forse mi viene da pensare che da 4 anni la Fiorentina si qualifica per la zona Champions, se questo può aver dato fastidio a qualcuno. A lei che che riusciamo ad allargare ulteriormente il fronte. Fermo restando una cosa, che dopo aver visto la trattenuta di Bonera a Bari su Alvarez, mi sembra di ricordare, o su Barreto, prolungata, e dopo aver visto quella ancora più netta, clamorosa, di ieri sera di Thiago Silva su Montolivo, sarà forse il caso che Collina ricordi i suoi arbitri. Tutto questo è successo nel giro di 3 giorni, sarà forse il caso che Collina ricordi i suoi arbitri che un rigore contro il Milan non è reato, almeno per il momento, e che si sappia. Il commento di Leonardo sulla vittoria del Milan. Abbiamo fatto molta fatica il primo tempo, credo che la Fiorentina è partita, diciamo, molto bene, facevamo fatica proprio all'origine dell'azione, proprio a partire con 2 centrali per un press in alto della Fiorentina. Credo che era difficile con i nostri centrocampisti, non avevamo l'ampiezza che era quello che ci mancava secondo me nel primo tempo. Secondo tempo più movimento, sicuramente siamo riusciti a cambiare posizione dei giocatori, ma anche così non era facile. Dopo una spinta finale con carattere, con tanta voglia, io credo che sicuramente è stata una vittoria che, a prescindere dalla tattica o della parte, diciamo, tecnica o quello che è successo durante questa partita, è stato proprio lo spirito che ci ha portato a questa vittoria. Nei paesi civili non è mai esistita nemmeno Calciopoli, scrive un ascoltatore. Beh, su questo potremmo discutere, anzi secondo me ne discutiamo nel corso della puntata, non subito, perché adesso facciamo il bilancio europeo di queste 2 settimane, insomma, con Fabio Tavelli. Poi ci sarà spazio, oltre che per i vostri interventi, anche per questo excursus sulle calciopoli nostrane ed estere, anche da un'idea proprio di Mourinho. Con l'aiuto del ministro degli esteri, cioè Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Il bilancio di queste partite di andata degli ottavi di finale. Un dato è, non dico impressionante, ma molto molto significativo: un equilibrio totale, non c'è una sola vittoria che vada, al di là dei pareggi, non c'è una sola vittoria che vada oltre il gol di scarto. Questo è vero, più gol nelle prime partite, 12 rispetto agli 8 delle seconde gare. Non c'è stato, come hai detto tu giustamente, alcun match con 2 gol di scarto. Ci sono state delle vittorie esterne, e questi sono risultati importanti, quello del Manchester e naturalmente la vittoria del Bordeaux, però sulla carta nessuna di queste sfide è teoricamente chiusa, anche se ovvio chi ha vinto in trasferta legittimamente può pensare di aver fatto un passo decisivo, così come chi ha segnato in trasferta può pensare di, non dico avercela quasi fatta, ma di aver messo un bastoncino importante. Mm-hmm. Però nessuna delle partite, già nessuno degli ottavi di finale è già deciso in partenza, cioè non c'è una larga vittoria da parte di una delle 2 squadre. Questo è già un segnale molto importante. Sì, aurea mediocrità, direi io, no? Da un punto di vista qualitativo, perché credo che tutto sommato la sfida che ha dato Lampi migliore sia stata proprio quella di ieri sera, Lampi è soltanto, almeno a parer mio, mentre per esempio il Real ha perso, se ne era già parlato, quel pareggio del Barcellona dell'altra sera ha comunque denotato che non siamo davanti al Barça dello scorso anno, perlomeno in quest'epoca. Ma io guarda, trovo qualche colpo di abbagliante sia in Inter-Chelsea che in Milan-Manchester. Le due partite di San Siro comunque complessivamente sono state molto ricche, sono state quelle dove si è segnato di più. Il Barcellona non è certamente in un buon momento e lo sappiamo, al di là delle assenze è una squadra che quest'anno ha fatto fatica a incantare, forse la vetta massima l'ha toccata in Champions contro l'Inter nel girone di qualificazione. Questo mi porta a pensare che il Barcellona abbia davvero bisogno di un grande avversario per sprigionare al massimo la sua forza. Detto questo, lo Stoccarda si è molto lamentato per la direzione dell'arbitro e credo che ci sia un altro filo conduttore rispetto all'aura mediocrità, che è una serie di partite nelle quali c'è qualcuno che si può lamentare, poi c'è chi si lamenta più ad alta voce, chi più a bassa voce, chi pubblicamente, chi privatamente, però non mi pare che gli arbitri abbiano passato gli ottavi di finale da voto alto, insomma. Allora facciamo prima una classifica, per dire, di lamentele, ma in questo caso più che fondate, e poi magari cerchiamo di provare a capire perché. Allora, la classifica è capeggiata certamente dalla Fiorentina, no? Perché insomma. Sì, anche perché il fuorigioco è più oggettivo rispetto al calcio di rigore. È vero tutto che ci sono delle situazioni nelle quali il fuorigioco è molto difficile per l'arbitro da vedere, però se un guardaline è piazzato in maniera corretta è molto difficile che non lo veda. Quindi cioè, il gol del 2-1 del Bayern di Monaco è il punto più basso dal punto di vista delle terne arbitrali. Con poi tutti gli altri errori di valutazione di Ovrebo sui falli a metà campo, eccetera, ma questo è già materia vecchia. Ieri sera si è aggiunto l'errore grave, indubbiamente, dello Spagnolo a San Siro, perché è un rigore solare. Sto scorrendo le agenzie che riassumono i titoli e i commenti dei quotidiani inglesi, non ci sono immagini di manette, ma insomma anche gli inglesi, sia pure con la loro sobrietà, benissimo non l'hanno presa. No, gli inglesi hanno messo una foto che certe volte parla più di qualsiasi parola, cioè il rigore che credo che veramente nessuno possa dire che quell'intervento di Samuel non fosse calcio di rigore. Se poi Meuto Gonzalez avesse anche tirato fuori il cartellino rosso, la situazione per l'Inter si sarebbe complicata. È anche vero che poi i rigori vanno trasformati. In ogni caso trattasi di errore grave, forse non l'unico di Meuto Gonzalez, che spesso casca in queste serate non brillantissime. Quindi questi due errori, certamente un'italiana Beh, poi attenzione, anche lo Stoccarda si è lamentato, c'è un fallo di mano di Piqué evidentissimo, sul quale onestamente era davvero difficile non vedere. Lo Stoccarda si lamenta anche per un'altra decisione in area non favorevole. Anche qui ovviamente il partito del dietrologo, il partito del complottista dirà che palazzo gradisce che passi il Barcellona. Sì, però il complottista allora in quel caso non tiene conto che Molinaro respinge un pallone col braccio allargandolo esattamente sulla linea di porta. Beh, ma il complottista come è noto sempre, sì, certo. Comunque si lamenta il Panathinaikos, l'Olympiakos, per un gol annullato alla fine contro il Bordeaux, ma insomma al di là del... Io l'ho rivista 3-4 volte. Carasso intanto fa un miracolo, perché credo che Carasso faccia la parata più bella degli ottavi di finale a colpo sicuro, un tiro da parte di un giocatore Olympiacos da 2 metri su un calcio d'angolo, lui fa una parata pazzesca. Poi onestamente secondo me il gol era buono, perché Carasso viene ostacolato ma è lui che va a spingere chi ha davanti, e probabilmente c'è anche un difensore del Bordeaux che ci mette del suo, quindi io credo che quel gol lì, anche se con qualche potesse essere convalidato. Ma quindi la domanda alla fine è questa: dopo anni in cui l'errore arbitrale in Europa era un'eccezione, ed era stata perché era diventata così bella anche la Champions League? Perché con errori così rari e così diluiti, l'errore era veramente l'eccezione che confermava la regola, e cioè la regola del grande arbitraggio. Da qui la credibilità, da qui la civiltà con cui anche dei verdetti, insomma, ogni tanto non limpidissimi, venivano accettati. Se però già a livello di ottavi di finale, in così tante partite, molte di queste vengono comunque alla fine anche decise da errori grossolani da parte dei migliori arbitri d'Europa, la domanda è: cosa sta succedendo a questa categoria? Sta succedendo che, come in tutte le categorie, ci sono i ricambi, e come tutte le categorie ci sono le annate buone e le annate meno buone, o quantomeno i periodi buoni e i periodi meno buoni. Devo anche dirti che nel giro di 10 anni è diventato veramente impressionante lo spiegamento di telecamere e di forze tecnologiche, sì, in grado di andare a beccare qualsiasi cosa. Ci sono 3-4 replay per ogni azione, quindi chi sta fuori è impossibile che non si accorga di quello che accade. Gli arbitri sono sempre gli stessi. E magari quando capitano, ripeto, i periodi nei quali non ci sono grandissimi arbitri, può capitare. Io però trovo questo, che al contrario del campionato dove le tensioni sono alimentate settimanalmente, lo spezzettamento della Champions League, cioè il fatto di poter decantare gli animi per qualche mese tra la fase, che quella gironi che si chiude a dicembre, e la fase degli ottavi di finale, porti comunque a un comportamento un po' più corretto in Europa, un po' perché ti, sì, vedono in di più, nel senso che il palcoscenico è più ampio. Però a parte l'isterismo finale, l'isteria di Drogba nella partita contro il Barcellona, che però valeva una finale di Champions, sì, cioè valeva una qualificazione alla finale, quindi ci può anche stare di essere molto arrabbiati, a me pare che anche di fronte a un arbitraggio scarso, anche di fronte a un errore evidente, la reazione sia durante la partita ma anche dopo la partita sia stata mediamente più bassa nei toni rispetto a quello che siamo abituati a vedere in campionato. Un'occhiata alla serata di Europa League, che ha, insomma, che nasce all'insegna della formalità per la Juventus, o poco più, e invece dell'impegno congruo per la Roma, tra l'altro a meno di 3 giorni dalla trasferta di Napoli, che non sarà esattamente una passeggiata. No, io tra l'altro, se vuoi, ti do anche le quote ai bookmakers, che spesso sono una buona lettura. La vittoria della Roma è data 1,35, che è una quota bassissima, quindi gli scommettitori danno per certa la vittoria della Roma, e quindi di fatto praticamente, poi bisogna vedere quanto sarà lo scarto, il passaggio di turno. La vittoria della Juventus è data 1,7 ed è una quota più alta, perché la Juventus, avendo già vinto all'andata, può permettersi anche il pareggio, che è una quota interessante, 3,3. Non è altissima la vittoria dell'Ajax, che è 4,7, che è una quota buona da prendere nel caso appunto di vittoria dell'Ajax, ma che denota come l'Ajax appunto debba vincere, quindi si presume che vada a moltiplicare gli sforzi per vincere. A parte questo, mi pare, insomma, che il turno sia lì da prendere. Ma sia lì da prendere per tutte, nel senso che mentre in Europa League le due, nonostante la sconfitta della Roma, partano favorite, anche le italiane in Champions League, nonostante ci siano state 2 sconfitte e una vittoria con gol preso, autorizzano comunque a pensare che questa volta le italiane, certo, più chi meno, nel 3-3 sarà difficile, però le possibilità di passare sono veramente alte, perché anche se il Milan ha perso in casa, c'è la sensazione che il Milan in trasferta possa rendere anche di più. E possa, tra l'altro, notizia di oggi, Anderson ha già finito la stagione nel Manchester United. Cioè, complice il calo complessivo delle inglesi e con tutta probabilità il consolidamento del Milan a un certo tipo di livello europeo, ma soprattutto la crescita dell'Inter a livello di Champions League, perché comunque è indubbio che l'Inter sia una squadra diversa. Ieri sera sia stata una squadra diversa rispetto all'Inter del passato, certo, autorizzano certamente ad essere più ottimisti che in passato. Sì, anche per questi infortuni, tra l'altro, perché Anderson è un altro in meno su cui può puntare Ferguson. Ieri praticamente il Chelsea ha perso il portiere, perché Cech non, certo, giocherà al ritorno, e comunque il Chelsea a pezzi, cioè il Chelsea in difesa è una squadra che va attaccata, non c'è dubbio, e l'Inter ha una forza d'urto che le può far pensare legittimamente di fare un gol a Stamford Bridge. 30 secondi per Roberto Mancini, che dopo un avvio trionfale non se la sta passando benissimo. No, credo che se avesse potuto davvero chiedere un miracolo al genio della lampada, ieri sera avrebbe chiesto di passare il turno in FA Cup, perché incontrava lo Stoke City per la terza volta consecutiva, una in campionato, l'altra e altre due, quindi era la quarta in FA Cup, e al replay ha perso i supplementari, e adesso la stampa ovviamente sta cominciando a domandarsi se fosse stato il caso di prendere lui e non tenere Mark Hughes. Lui ha una carta, deve arrivare quarto, se arriva quarto si allunga la vita, se non arriva quarto credo che lo vedremo presto di nuovo in Italia. Ma è rimasto l'ultimo obiettivo stagionale, e il titolo del Sun stamane era City, Rob, un uomo in crisi, e questo non è senza un eccellente... mezzi termini. Esatto. Come d'abitudine per loro. A presto, Fabio. A voi, grazie Gigi, un saluto a tutti. Ci sono altre 2 squadre che si apprestano a tornare in campo stasera in Europa, anche, lo si diceva prima con Fabio Tavelli, anche se è un'Europa minore. Ma è pur sempre Europa. Sentiamo Ranieri sulla vigilia della partita da vincere con il Panathinaikos e su Totti. Come allenatore mi piacerebbe, no? Dopo 50 anni, allora si chiamava Coppa delle Fiere, mi piacerebbe portare un trofeo europeo a Roma, ma non sarà facile, ce ne accorgeremo contro questo Panathinaikos. Però questa è io credo che prima di tutto ci debba essere il sogno e poi ci debba essere l'azione. Il sogno l'abbiamo detto, ma quello che conta sono i fatti. I fatti dicono che avremo una partita difficilissima. Stiamo parlando di un giocatore che ha avuto più infortuni sopra quel ginocchio, per cui il dottore che meglio di tutti lo conosce ci dà dei tempi e dei modi che noi rispettiamo, per cui credo che meglio di così non si possa fare. E adesso Zaccheroni alla vigilia di questa che in linea di massima appare poco più di una formalità contro l'Ajax. Portavamo rispetto all'Ajax prima della gara di andata, ne portiamo ancora di più oggi dopo averci giocato contro. È una squadra che tiene il campo molto bene, è molto partecipe perché tutti attaccano, tutti difendono. All'andata siamo stati anche messi, ed è questo un aspetto che mi dà tanta fiducia, siamo stati messi a dura prova da questa squadra che sta attraversando un momento estremamente positivo. Quindi l'essere riusciti a cogliere un risultato positivo in queste condizioni ci dà la fiducia, l'autostima necessaria per poterli affrontare allo stesso modo dell'andata. Anche se la Juventus dovrà fare a meno, no, non solo e non tanto stasera, quanto per il prossimo mese, nella migliore delle ipotesi, di Buffon. E questo mi sembra un guaio non da poco. Gianni ha chiamato da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. È una, così, un'osservazione di carattere, come dire, curioso. Ho visto la formazione dell'Inter, mi è parso di vedere una squadra costituita praticamente da tutti stranieri, quindi una multinazionale più che una squadra italiana. Allora la mia osservazione riguardava proprio questo, che il calcio italiano si esprime a livello di club sempre più con presenze di giocatori stranieri. Gianni, io spero che lei non abbia la pretesa dell'originalità con questa osservazione, nel senso che non è una cosa di ieri sera e nemmeno di quest'anno e nemmeno degli ultimi scorsi, non solo, ma è una cosa che riguarda in maniera più macroscopica l'Inter, ma che riguarda ormai tutte le società, non italiane ma d'Europa. Credo che anche io adesso non ho fatto un conto, ma credo che anche nel Chelsea non ce ne siano moltissimi di inglesi, ma questo vale ormai per ogni nazione. Ora le squadre di club una volta erano delle piccole nazionali, no? Che giocavano quest'altra manifestazione, e invece oggi sono delle multinazionali, se le vogliamo mettere anche sul piano dei budget che occorre investire per allestirle, salvo poi scoprire, come si è scoperto ieri, che la Premier League da sola ha un deficit superiore a quello di tutto il resto del calcio d'Europa, ed è lì che forse varrà poi la pena un giorno o l'altro di cominciare a riflettere. Vincenzo da Ferrara, buongiorno. Garantini, una domanda. Nel caso che tutte e tre le squadre italiane non dovessero passare ai quarti, perderemo un posto in Coppa o rimarrebbero sempre i quattro posti? Dipende da come si comportano le rivali nel frattempo, e poi in particolare la Germania, che era quella che ci inseguiva nella classifica UEFA più da vicino, fermo restando che mi auguro che il suo sia un intervento scaramantico. Roberto da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, due cose. Che Mourinho parli, cioè non parli di quanto è successo al Milan a Firenze ieri, va benissimo, cioè, lasciando però capire tante cose, va benissimo, salvo poi dimenticarsi di dire che il Chelsea meritava un rigore con l'espulsione del giocatore, e volevo vedere l'Inter giocare in 10 contro 11 contro il Chelsea e non contro la Sampdoria. Per contro, per il Milan è vero, ha avuto dei vantaggi, ma non si è mica certo andati a cercare, cioè, o vogliamo pensare che sia che si è andato in cerca in qualche maniera strana di aiuti. Ci sono state delle sviste, ma non sempre le sviste sono andate contro il Milan o a favore. Cioè, alla fine ci diciamo che quest'anno, Vincenzo, diciamo che quest'anno e soprattutto in questi ultimi tempi il saldo attivo delle sviste a favore del Milan è abbastanza significativo. Poi un bel giorno girerà, magari, no? Perché sempre queste cose. Volendo pensare bene, cioè, se si tratta di congiunture, io non credo che adesso sia scattata, come sosteneva il pro De Zeffirelli la settimana scorsa, sia scattata la trappola punitiva dell'UEFA e di Platini in particolare nei confronti della Fiorentina. Cioè, io credo che se noi ci mettiamo su queste strade, allora smettiamo davvero, no? di andare a vedere calcio, di seguirlo e di tutto quello che è. Io credo che bisogna cercare di stare attenti a quello che succede, magari ogni tanto qualche segnale di, se non di allarme, di inquietudine, coglierlo e poi sforzarsi di pensare positivo e certamente non avvelenare i pozzi, no? Come invece insomma, che sappiamo chi questa settimana si è premurato di fare. Io sentirei ancora un intervento e poi, a proposito di avvelenamento di pozzi, me ne faccio sentire un'altra di Mourinho di ieri sera, che è abbastanza inedita, mi pare, al momento. Renato ancora da Treviso, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Sì. Io chiamo proprio in merito alla Fiorentina, sono piuttosto arrabbiato in effetti. La Fiorentina qualche anno fa, in un campionato in cui aveva subito praticamente di tutto, vedi anche la mano di Zauri, famosa, sempre col nostro amico Rosetti, è stata coinvolta in calciopoli. E qualcuno gli è stato detto, a poche giornate dalla fine, qualcuno ha detto della Valle, guarda, se vuoi salvarti devi parlare con Moggi. Ora, mi sembra che stiamo ricominciando, non so, con chi dobbiamo parlare quest'anno per avere quello che ci spetta di diritto? Ma io mi auguro con nessuno, Renato, mi auguro proprio che non sia il caso di parlare con nessuno e mi auguro che quella vicenda sia sepolta. Visto che l'ha nominata, però, adesso le faccio sentire questo frammento le faccio sentire questa tanica di benzina di Mourinho ieri sera a partita vinta e tra l'altro non dico mai, mi veniva da dire omaggio, insomma, comunque partita vinta e vinta grazie anche stavolta, visto che a differenza di quello che pensa lui, noi pensiamo che le sviste vadano e vengano, vinta anche grazie ad una svista, forse non sola tra l'altro, andata a suo favore. Sentiamo Mourinho. Quanto a quello che è successo a Firenze, io non ho visto, però mi hanno detto che non è diverso di quello che è successo a Bari. Io ho sentito qualche parola nuove per me, nel mio deficiente italiano, che è: dobbiamo abbassare i toni. Non è così che si dice? Dobbiamo abbassare i toni. Bassiamo i toni. Bassiamo i toni. È stato così che voi italiani avete costruito una storia che a me, come professionista di calcio, che a me come persona che guadagna la sua vita nel calcio, mi ha fatto una vergogna terribile, perché io in quel momento lavoravo in Portogallo, per quando ho saputo del calciopoli mi ha fatto vergogna mangiare e dare di mangiare alla mia famiglia con soldi del calcio. Però adesso bassiamo i toni, non parliamo di niente. E dico ancora una cosa, io arrivo in Italia onesto e escerò d'Italia onesto. E oggi, chissà, c'è un rigore contro di noi. A toni molto bassi, il più bassi possibile, anzi soffusi, vorrei ricordare quanto segue. È vero che l'Italia ha questa, e avrà per chissà quanto tempo, questa trave di calciopoli. È altrettanto vero che in quegli anni in Portogallo c'era qualcosina più di una pagliuzza, comunque, che si chiamava Apito Dourado e che era il nome di uno scandalo calcistico scoperto nella stagione 2003-2004, in cui furono coinvolti due club, uno dei quali era il Porto, campione di Portogallo allenato da Mourinho. Quella fu un'inchiesta postuma che iniziò due anni dopo su denuncia dell'ex moglie del presidente del Porto, denunciò degli illeciti, alcuni non risultarono veri e questa accusatrice fu accusata di falso, fu querelata e accusata di falso, ma in un altro caso invece questa operazione a pito finale, e cioè a pito durado, fischietto d'oro, portò ad alcune conclusioni, tra cui, ripeto, sia pure a distanza di tempo, 6 punti di penalizzazione per il porto nella stagione 2007-2008, penalizzazione che non impedì al porto di vincere lo scudetto, il presidente del porto sospeso per 2 anni e una raffica di arbitri sospesi per tempi che andavano dai 6 ai 2 anni e 6 mesi. Evidentemente, ripeto, pur rispettando le proporzioni tra le travi e le pagliuzze, Mourinho era già esterofilo allora in fatto di disgusto. Questo è il minimo che si possa ricavare da questa vicenda e dai toni che avete appena sentito. Enrico ha chiamato da Roma, buongiorno. Dica. Senta, io volevo così dare un contributo, almeno la mia idea sul fatto dei valori arbitrali. Non so, mi sembra che, cioè, a parte rispetto al passato, c'è molta più pressione intorno a tutto il mondo del calcio, sicuramente più interessi e poi tante più partite, quindi anche gli arbitri secondo me arrivano stanchi, meno lucidi, meno freschi nella valutazione di quelli che sono gli episodi. Ecco, tutto qua. Volevo fare questa considerazione, so che cosa ne pensa. Cosa vuole che ne pensi, Enrico? Se lei scorresse il tono di alcuni messaggi che arrivano su questo display, avrebbe la percezione, sono qua da 10 anni, che non sono pochi evidentemente, mi pare rappresentino un discreto lasso di tempo, ci sono sempre stati in questi 10 anni dei mitomani o dei dei fragili di mente, mettiamole così, che ogni tanto intervengono con questo sistema di SMS e scrivono delle cose più o meno come dire attinenti all'umano, ma spesso e volentieri no, ma erano, ripeto, 10 anni fa casi isolatissimi, poi un po' alla volta sono salite in intensità durante il periodo di Calciopoli, ovviamente sto parlando del programma che conduco io, erano aumentati in maniera esponenziale, poi si erano calmati eccetera. Se lei vedesse come sono cresciuti di numero e di toni, soprattutto a proposito di abbassarli in questi giorni, lei si farebbe un'idea ancora più precisa del degrado che, ripeto per l'ennesima volta, non è soltanto il degrado del nostro modo di vivere il calcio, è il degrado purtroppo della nostra società civile, cosa che è ben più grave. Ma nel 2007 Mourinho non era in Portogallo, scrive un ascoltatore. Beh, basterebbe ascoltare bene quello che viene raccontato. Lo era nel 2003-2004, e cioè l'anno in cui il Porto, allenato da Mourinho, e il Boavista furono accusati di aver corrotto un gruppo di arbitri. Tocca a Massimo da Napoli, buongiorno. Buongiorno Galattini. Dica. Premesso che la stima e simpatia nei suoi confronti è diversamente proporzionale a quella che lei ha nei confronti di Mourinho, e quindi la ringrazio. E quindi lei mi venera evidentemente e di ciò la ringrazio. La ringrazio per le argomentazioni che lei ben correttamente supporta, anche l'ultima riguardo il prendiamo lezioni anche da questo signore che viene a darci lezioni. Di etica e di educazione. Mamma mia, terribile. Certo. Detto questo, mi permetta però, abbassando i toni, sono milanista, premesso. Sì. Nell'ultimo periodo lei dice il saldo attivo è un po' favorevole. Io credo che, senza voler fare il solito discorso che si compensa più o meno, Bologna e Livorno abbiamo, tra virgolette, per demerito nostro, porta a casa due pareggi vergognosi per demerito nostro, con qualche rimpianto su qualche rigore che ci poteva anche stare. E mi piace sottolineare, e non credo che sia un modo di fare di piaggeria giornalistica, di modo dei giornalisti, Leonardo ieri sera con l'onestà e la pacatezza che lo contraddistingue, quando ha detto era rigore, era rigore. Onestamente mi dispiace per i simpaticissimi toscani, i fiorentini, è vero, io ieri fino al 30° del secondo tempo ero fuori per lavoro, discutevo col figlio al telefono, dicevamo di che razza di bruttissima squadra fossimo, e quanto meritassimo veramente di perdere, perché eravamo indecenti in campo, secondo me. Sì, Massimo, no, d'accordo, ma è tutto vero. Da un arbitro come Rosetti, non mi è venuta bene, perché non ho mai, insomma, la mia stima è sempre stata non quella dell'arbitro che si dice, ma insomma, comunque, da un arbitro che attualmente in Italia rappresenta l'Italia in Europa e nel mondo e la rappresenterà anche in Sudafrica, non ci si aspetta un errore di quella gravità, sia pure con la complicazione della cosiddetta norma del vantaggio, nel senso che è stato giusto in un certo senso lasciar correre quell'attimo l'azione per visto che il pallone stava andando a un giocatore della Fiorentina che era molto vicino alla porta, però rimane il fatto che la gravità di quel fallo è tale per cui un secondo dopo devi fischiare il calcio di rigore, come Ovrebola ha fischiato un secondo troppo presto la settimana prima e Rosetti invece si è proprio dimenticato il fischietto. Quando succedono due episodi del genere, questo e quello di Bonera nel giro di 3 giorni, io credo che farebbe sensazione anche in un altro paese normale, qui dove appunto già sabato scorso per molto meno e per un arbitraggio praticamente perfetto di Tagliavento si era scatenato il finimondo. Lei capisce che due episodi del genere consecutivi che riguardano la stessa squadra che riaprono il campionato, insomma, un minimo di perplessità non possono non suscitarle, insomma. Se poi fosse, non so, la squadra di cioè una squadra di secondo piano o di terzo piano, dici, è il momento del Foggia, no? O del Chievo o del Livorno. Trattandosi di una squadra, come dire, leggermente più cara al palazzo, insomma, un minimo, ripeto, è inevitabile. Paolo, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Grazie. In linea generale io sarei molto più appassionato di pallacanestro di quanto non lo sia di calcio, però la trasmissione è bella, sono spesso in macchina e la seguo molto volentieri. Una considerazione, la prima, nel basket in linea generale hanno eliminato certe problematiche introducendo un arbitro in più e lo hanno fatto ormai da almeno, penso io, una quindicina d'anni e effettivamente grossissime problematiche di arbitraggi con grosse pecche sono sparite. Perché, secondo lei, domanda, magari anche un po' retorica, ma domanda, perché il calcio invece, non dico la moviola in campo, però un discorso di un arbitro in più, un giudice di linea, ma o qualcosa? Paolo, perché quando il calcio è ben arbitrato, è arbitrato perfettamente così, si tratta di arbitrarlo meglio, si tratta di essere sempre credibili innanzitutto, e più precisi e più attenti, perché noi stiamo comunque sempre parlando, non dimentichiamo che stiamo parlando di eccezioni, stiamo parlando in questo momento di un periodo particolarmente sfortunato in Italia e all'estero, ma stiamo parlando di eccezioni perché la gran parte delle gare viene diretta bene, la gran parte degli episodi viene valutata esattamente, i guardaline sono diventati 10 volte più bravi di pochi anni fa. E quindi secondo me non c'è questo bisogno, c'è il bisogno di risolvere il problema delle tecnologie di porta oppure dei giudici aggiuntivi di porta, questo sarà un problema di valutazione o anche di costi, ma io sono certo che il concetto di uniformità arbitrale, che è la vera araba fenice da raggiungere, già è impossibile perché ogni testa un'idea, no? E quindi è difficile raggiungere sui vari campi. Se noi mettessimo più arbitri all'interno della stessa partita per un gioco difficile come il calcio, a differenza del basket che è troppo facile, io credo che faremmo soltanto che aggiungeremo una complicazione anziché levarne una. Non mi sono dimenticato, o meglio, ci stavo riuscendo, ma ho ricevuto opportuno cartellino giallo, è il momento di ascoltare cosa è successo nella storia dei campionati, no? Ultimamente è così, il filone di Nicola Filippone, giorno 25 febbraio. Sembra ieri. 25 febbraio 1912. In una gara del campionato catalano esordisce con la maglia del Barcellona un ragazzino di origini filippine, destinato a diventare una leggenda del club blaugrana. Si chiama Paulino Alcantara e ha 15 anni, 4 mesi e 18 giorni. Alcantara è tuttora il più giovane calciatore ad aver debuttato con la prima squadra del Barcellona, oltre ad essere il miglior marcatore di tutti i tempi. Gli si attribuiscono ben 357 gol in altrettante partite. Questo era un ricordo indubbiamente datato e quindi era una chicca da un punto di vista storico. Tiziano ha chiamato da Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io sono un tifoso della Fiorentina e quindi, come immagino supporrà, sono abbastanza arrabbiato, ma in questo senso io sono arrivato a questa conclusione: il calcio fa girare forse ormai molti soldi, forse troppi. Conseguentemente, secondo me, viene sacrificato in certe condizioni allo spettacolo, anche secondo il mio, sempre il mio punto di vista, la realtà dei responsi del campo, nel senso che secondo il mio punto di vista la Lega tedesca spinge perché vuole passare avanti all'Italia per avere la quarta squadra. Galliani dà bordate tutta la settimana per riaprire il campionato. Io sinceramente da 30 anni seguo la Fiorentina e negli ultimi 5-6 anni, nonostante lo scandalo di Calciopoli, quando c'era qualcosa da rimettere a posto, perlomeno a Firenze hanno sempre mandato Rosetti. Hanno sempre mandato Rosetti, perché la mano di Zauri, la Fiorentina era salva, e guarda caso è venuto fuori che Moggi voleva fare succedere la Fiorentina fino a quando Della Valle non ha chinato la testa. Ora siamo arrivati al punto che si deve riprendere l'Inter e ne fa le spese la Fiorentina. Io personalmente penso che, siccome ci sono troppi soldi, bisognerebbe smettere tutti di essere consumatori del calcio. In questo caso, abbassando gli introiti di questa industria, probabilmente ritornerebbe ad essere un qualcosa di simile a uno sport, perché ormai sinceramente io non ci credo più. È liberissimo di farlo, Tiziano. È un po' nichilista la sua come posizione. Io capisco il momento difficile dello scoramento, ma insomma mi sembra comunque un po' di quel segno. Francesco Modena, buongiorno. Buongiorno Garantini, è sempre un piacere. Tra l'altro i brividi da tifosissimo del Barcellona per il ricordo di quest'oggi, è veramente incredibile. Speriamo che i numeri siano veri, anche se si va così indietro nel tempo. No, restavo sul tema degli arbitri. So che parlando di Movioli in campo e quant'altro non è d'accordo, ma c'è un sistema che io ritengo molto interessante nel football americano, che è quello del challenge, cioè la possibilità per gli allenatori in due momenti della partita di chiedere agli arbitri, due momenti soltanto, di rivedere i filmati e ripensare eventualmente a una decisione. Questa decisione viene rivista da altri arbitri, che potrebbe essere il quarto uomo nel calcio, che valutano eventualmente il contatto, il fuorigioco e quant'altro. Si perde poco tempo, è discrezionale per gli allenatori, quindi se la partita è arbitrata perfettamente non ce n'è bisogno, non si può superare le due volte. Molti degli ultimi episodi, penso ieri a Firenze, Bari eccetera, sarebbero stati risolti, perché non è neanche un fatto di intensità alle volte, ma proprio di svista totale dell'arbitro. Va bene, grazie Francesco. Dunque Conti del Cagliari e Flamini del Milan sono i due squalificati dal giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Vediamo chi toccherà domenica finire nel mirino dei nostri soliti noti. Dunque Bergonzi arbiterà Udinese-Inter, Milan-Atalanta serie diretta da Banti, Napoli-Roma-Rizzoli, Juventus-Palermo, Valeri, Lazio-Fiorentina, Romeo. Gli altri arbitri ancora: Catania Bari Peruzzo, Chievo Cagliari Doveri, Genoa Bologna D'Amato, Livorno Siena Morganti e Parma Sampdoria Rocchi. Grazie a tutti, grazie a Flavio Suardi e Franco Piantanini in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buon pomeriggio.